Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Spiaggia libera per noi che veniamo dall'interno, dalle montagne e dai campi di Gran Turco, dalle città, dai grattacieli, spiaggia libera per noi. È inutile fare finta di nulla, la prova costume è un appuntamento per tutti, anche per chi il costume non avrà occasione o intenzione di indossarlo. Se gennaio è il mese dei propositi, luglio è il mese della forma, o meglio della remise en forme, perché i chili in più, quando i vestiti diventano leggeri, pesano di più. E allora, in nome di quella famosa prova costume, che poi altro non è che il momento dell'anno in cui siamo più naturalmente portati a fare conti con specchio e bilancia, cerchiamo di correre ai ripari. Il tempo stringe, il caldo forse aiuta ed eccoci qui. Potevamo pensarci prima? È vero. Ma cosa serve adesso sentircelo dire? Forse invece ci aiuta una guida ragionata, equilibrata e soprattutto serena di quello che possiamo fare e di quello che è meglio evitare. Siete d'accordo? Allora chiamatemi, ne parliamo oggi con il dottor Filippo Ongaro. Buongiorno, dottor Ongaro. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Che è pronto per una nuova puntata di Mangia con me. Assolutamente, siamo qua in prima linea. 800 24 00 24, dottor Ongaro, belli o brutti, alla linea ci pensano tutti, ma sono soprattutto i personaggi famosi a rendere celebri regimi alimentari che poi si dimostrano più o meno salutari. Questo ce lo dirà lei. Sul sito di donnamoderna.com un articolo svela i segreti di star della portata di Jennifer Aniston, Sharon Stone, Victoria Beckham, e in linea abbiamo il direttore Daniela Cerrato. Ciao Daniela. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, io direi, se tu sei d'accordo, di iniziare da Jennifer Aniston, che fa una cosa curiosa. Sì, direi che è quella più curiosa del momento, perché, vabbè, tutti la conoscono. Scusate, io sono in un aeroporto a Palermo, quindi sentite dei rumori, ma fa niente, li ignoriamo. E Jennifer Aniston, tutti ce la ricordiamo come la Rachel Green della sitcom Friends. Sì. E figlia di un greco, perciò ha ricambiato il suo nome, si chiamava una cosa come Aniskaki, e poi famosa perché lei aveva recitato nel film Anche io e Marley, ma veramente la sua celebrità l'ha raggiunta grazie al matrimonio con Brad Pitt, che poi è finito in lacrime come spesso accade a Hollywood. E si dice nei giornali di gossip che lei da piccola era grassa, tella, e non aveva molto senso delle diete, di un regime alimentare sano. E così recentemente, invece, dopo il suo exploit a Hollywood, si è rimessa molto in forma, è sicuramente una bella attrice, ma ultimamente ha scovato questo metodo che viene chiamato la baby food diet. Che cos'è questa baby food diet? Di fatto è una dieta a basse calorie che si basa su mangiare le pappe dei bimbi, di fatto, omogenizzati, passati di verdure, zuppe, alimenti diciamo concentrati, abbastanza proteici e poco calorici. Pare che ad Hollywood non sia l'unica, anche Gwyneth Paltrow la segua, e si dice che praticamente consiste in 6 mini pasti con questo tipo di omogenizzati ed un solo più pasto un po' più grande ipocalorico. Che tristezza, allora, a me viene tristezza, dottor Ongaro, ma lei tutte queste pappette già masticate. Io la boccio in toto questa strategia della Aniston, nel senso che non mi pare assolutamente una soluzione percorribile. E poi giustamente, come stavi dicendo tu, cioè anche da un punto di vista emotivo, psicologico, accettare di mangiare delle scatolette di omogenizzati, no, direi proprio non ci passiamo piace. Al prossimo. Passiamo alla prossima. Allora, un'altra celebrità che fa molta invece attenzione storica è Madonna, che è la famosa... La regina del pop. La regina del pop, Luis Veronica Ciccone, l'anagrafe italo-americana, di segno zodiacale Leone, e lei applica con la dieta macrobiotica. Forse questa dieta l'ha aiutata ad essere molto in forma. Sappiamo che insomma è un miracolo vivente, 54 anni, salta e balla sugli stage come quando ne aveva negli anni 80. 22. Quando, esatto, quando faceva la Material Girl e di fatto insomma la sua base della sua alimentazione è quella di seguire cotture semplici, leggere, ingredienti freschi e bio. Dottor Ongar, è lì da vedere. Ma secondo me questo è già un discorso un po' più ragionato. Intanto Madonna ha dal lato suo la testimonianza della sua forma fisica negli anni, che non è cosa da poco, è tra l'altro nota per affrontare dei programmi di attività fisica molto intensi. E insomma, quando va sul palco, devo dire che si fa fatica a pensare che ha 54 anni. Quindi le darei qualche punto in più, anche perché dietro al concetto di macrobiotica, al di là dell'aspetto filosofico, ci sono anche nell'ambito nutrizionale, insomma, delle cose secondo me valide. Come ad esempio? Ma ad esempio, per dirne una, la quantità di fibra, che sicuramente l'alimentazione macrobiotica viene ingerita in quantità elevate. Certo. Questo per dirne uno, ma nel complesso questo approccio macrobiotico che tenta di esaltare la naturalità dell'alimento e quindi non solo diciamo puramente l'aspetto calorico, lo vedo completamente antitetico all'atteggiamento della Aniston, che invece è... così si affida a dei prodotti che sono estremamente artificiali, peraltro, insomma. Daniela, chiudiamo con Sharon Stone. Sì, la Sharon Stone è un'altra cinquantenne meravigliosa, lo sappiamo, ha una forma fisica speciale per l'età che ha, e si basa la sua dieta su quella che viene chiamata IG diet, cioè la dieta dell'indice glicemico, una dieta inventata da un dietologo canadese che è Rick Gallop. Fondamentalmente segue un po' l'indice glicemico che c'è nei cibi, rosso, verde, giallo, a seconda del colore proprio, sì, che contiene anche un indice glicemico più o meno alto, si evitano dei cibi. Quelli rossi sono da evitare, i gialli da limitare e i verdi invece si possono... Un po' come il semaforo, i colori del semaforo. Esatto. Ci piace, dottor Ongaro? Beh, devo dire che sull'indice glicemico... Sharon Stone ci piace. Sì, cioè... Sharon Stone ci piace, senza dubbio. Anche lei dimostra che quello che fa, insomma, dà dei risultati concreti. Poi, al di là di questo, dell'indice glicemico, insomma, abbiamo parlato anche noi molto spesso... A Mangia con Me. E devo dire che... Oggi è difficile, non è tanto, anche qua non è una dieta, non è un'etichetta, è un concetto, e l'indice glicemico dovrebbe rientrare in qualsiasi approccio nutrizionale, se ne dovrebbe dare un certo peso, quindi direi anche qua è una scelta ragionata che ha una sua logica. Allora, intanto che voglio salutare Daniela Cerrato, direttore del sito di donnamoderna.com, prima di salutare, grazie Daniela, tu che cosa mangi e a che cosa rinunci per rimanere in forma? Io seguo un po' un mix delle varie teorie, non sono talebana in nessun senso, forse la mamma e papà mi hanno dato la fortuna di avere comunque un metabolismo sano e una dieta sana, essendo tutti campani, quindi è una dieta mediterranea, basata fondamentalmente su un po' di carboidrati, forse un po' troppi, con l'età superata diciamo i 40 li sto limitando, e molte verdure e pesci. Ho eliminato la carne rossa da molti anni per motivi non religiosi o ideologici, ma semplicemente perché non mi piace e sono convinta che non faccia benissimo per via di come vengono alimentati oggi gli animali in generale, ed è difficile quindi trovare buone carni. E poi cerco di mantenermi con yoga e nuoto fondamentalmente. Dottor Ongaro. Beh, fantastico, direi anche qua perfetta. Un approccio ragionato, equilibrato e anche complesso, perché c'è sempre anche la variabile dell'attività fisica che non ce la dobbiamo dimenticare. Assolutamente no. Ha preso dopo i 40, dopo varie batoste, comunque. Prima o poi si impara. Grazie, prima o poi si impara. Grazie a Daniela Cerrato per essere stata con noi. Grazie a voi, arrivederci. E voi che cosa mangiate e a che cosa rinunciate per restare in forma? 800 24 00 24. Dottor Ongaro, c'è chi per dimagrire rapidamente riduce carboidrati a favore delle proteine, le famose diete iperproteiche. I risultati indubbiamente ci sono, l'ago della bilancia scende rapidamente senza, si dice, soffrire alla fame. Ci aiuta a capire perché? Innanzitutto, a che cosa servono queste proteine? Ma Allora sì, le diete iperproteiche insomma non sono nulla di nuovo, ci sono sempre state e molte diete anche con nomi differenti finiscono poi quando si analizzano per essere delle diete iperproteiche. Beh, le proteine sono un po' essenza della vita, potremmo ritrovarle in moltissime delle funzioni dell'organismo, sia in ambito strutturale, pensiamo al collagene, ma pensiamo anche ai nostri muscoli, sono fatti di proteine, ma anche in ambito funzionale, gli enzimi, cioè queste proteine che processano, che regolano i processi cellulari, sono appunto delle proteine, le immunoglobuline che fanno parte del sistema immunitario, insomma le proteine sono senza dubbio essenziali, si trovano in molti alimenti, ovviamente in tutto quello che è proveniente dal mondo animale, per quello che riguarda il pesce, la carne, le uova, il latte, i derivati del latte, ma anche dal mondo vegetale, come per esempio i legumi, di cui abbiamo parlato molto spesso. Sì. Hanno un'azione sicuramente di danno una maggior sazietà rispetto ad altri alimenti, ci sono dati in letteratura a sostegno di questo, anche se devo dire che l'effetto maggiore di sazietà viene dato soprattutto quando si fanno delle diete un po' estreme e prolungate che inducono una chetogenesi, cioè inducono la presenza di corpi chetonici che sono di fatto insomma un po' delle tossine e che contribuiscono a ridurre il senso della fame. Quindi il fatto che le proteine siano essenziali per noi non significa che se le aumentiamo a dismisura otteniamo per definizione un beneficio. Detto questo, aggiungerei anche per concludere che tra l'altro quando si parla di proteine è fondamentale capire da dove vengono queste proteine, perché un conto è mangiare abbastanza proteine provenienti per esempio dal pesce azzurro ricco di omega 3 e quindi da un certo punto di vista di grassi che fanno bene. Un altro conto è riempirsi di proteine che vengono, non so, da carne rossa, grassa, certo, ricca di grassi saturi, che invece non ci fa bene per nulla. Quindi, insomma, attenzione a non confondere il ruolo essenziale delle proteine con la necessità di aumentarla a dismisura, soprattutto a lungo termine, cosa che può finire con l'appesantire davvero anche la funzionalità dei reni e del fegato. Anche perché di proteine la nostra dieta è sufficientemente ricca. Ne parliamo con il dottor Andrea Ghiselli, ricercatore dell'INRAN, l'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione. Dottor Ghiselli, buongiorno, che bello averla qua. Buongiorno a voi. Dottor Ghiselli, la nostra dieta è già abbastanza ricca di proteine. Ne mangiamo più del necessario. Anche chi, come molti di noi, pensano di seguire la dieta mediterranea, alla fine vai un po' a vedere, voi lo avete fatto, ne consumiamo parecchie. Allora, la dieta mediterranea non la segue più nessuno al mondo, quindi non è per il fatto che noi siamo sul territorio italiano che acquisiamo per diritto il fatto di fare dieta mediterranea. La dieta mediterranea finisce laddove comincia la pancia, non ci piove. Se uno ha la pancia non sta facendo dieta mediterranea. Ecco, quindi lì individuiamo subito. Almeno quantitativamente, cioè sta mangiando troppo. Sì. C'è poco da fare, i nostri nonni la pancia non ce l'avevano. E questa è una cosa che noi non dobbiamo perdere mai di vista, perché quando facciamo le diete, facciamo quella iperproteica, facciamo quella ipolipidica, facciamo quella di Tizio e facciamo quella di Caio, stiamo perdendo di vista il vero problema, che il vero problema non è la quantità di macronutrienti, il vero problema è il fatto che a noi ne servono pochissimi perché non consumiamo nulla facendo attività fisica. Quindi la prima cosa da fare è quella di aumentare l'attività fisica, poi si parla. Sì, e lì e poi la pancia va giù. No, ma io volevo. Sì. Mi faccio aggiungere una cosa, perché ho sentito dire prima che la carne rossa fa male. Non fa male, non c'è alimento al mondo che faccia male sempre o bene sempre. No, la collega ha detto, perché io ho sentito che a me non piace, ho sentito che magari ognuno può. Sì, la collega dice. Se non lo mangio, perfetto, certo. Ma non è che fa male. Ha detto bene Ongaro prima e diceva che non è che siccome le proteine sono utili all'organismo, se io ne prendo di più è meglio. Certo. Perché appunto non esiste nulla che fa solo bene o fa solo male. Sono le, sono le proporzioni nelle quali è solo essere benessere che fa solo anche bene. L'acqua è un elemento indispensabile, ma c'è gente che muore per troppa acqua. Dottor Ghiselli, torniamo un attimo alle proteine, perché c'è questa tendenza a consumarne più del necessario, e queste diete iperproteiche, ha anticipato il dottor Ongaro, possono nel breve e nel lungo periodo affaticare il nostro organismo e quindi provocare anche dei danni. Quali sono? Dunque, i danni nell'immediato, diciamo in acuto, ce ne sono pochi, se non una certa quota di demineralizzazione dell'osso dovuta forse a diete troppo ricche di proteine, ma devono essere tante e per un periodo. Invece i danni più pericolosi sono quelli a lungo termine. Sì. Le proteine, le diete iperproteiche ora finalmente stanno uscendo delle evidenze scientifiche, insomma, che anche nel lungo termine fanno male. Non tanto quando si pensava che le diete iperproteiche potessero, poiché affaticavano fegato e reni per la loro eliminazione, potessero portare ad una patologia di questi organi. Qui c'è poco di dimostrato, ci sono solo dei sospetti, mentre è dimostrato che invece predispongono alle malattie cardiovascolari, questo sì, obesità e malattie cardiovascolari. Grazie. Dieta a lungo. Infatti noi sappiamo di tempo, diamo un'indicazione di tempo. A lungo che cosa significa? A lungo significa per tutta la vita, come sta facendo la maggior parte delle persone ormai, soprattutto di sesso femminile, che non consumano carboidrati perché pensano che facciano ingrassare, però consumano tante proteine. Grazie dottor Ghiselli per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a voi. Abbiamo Eddie che ci chiama da Prato e Giuseppe da Bologna all'800 24 00 24, e in linea con noi sempre il dottor Filippo Ongaro. Che cosa mangiate e a che cosa rinunciate per ritornare o mantenervi in forma? Eddie, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno. Bene, sono contento. Anche noi di sentirla. Ci racconti? Bene, questo è già un buon inizio. Sì. Ti ascolto sempre. Bravo. Allora, niente, no, la mia esperienza riguardo la mia figura, insomma, perché ho avuto una malattia, l'algodistrofia, che è un'osteoporosi fulminante, e questo era anche sovrappeso. Sì. La macrobiotica mi è venuta in aiuto perché ho studiato me stesso, ho studiato gli alimenti, ho scoperto la cosa che mi faceva male e ho modificato un po', diciamo, le mie abitudini e le tradizioni, ecco, a tavola. Perciò eliminando lo zucchero raffinato, evitando gli alimenti raffinati, eliminando il latte e i suoi derivati, e quindi, ecco, sempre sostituendo con altri alimenti della solita, insomma, nutrizione, ecco. Più che eliminare, ha sostituito. Dottor Ongaro, zucchero, per lei è un invito a nozze, no? Eliminare lo zucchero. Beh, diciamo che fa parte molto di quello di cui abbiamo parlato anche con Paola Reverso nelle nostre puntate di Mangia con me, cioè l'idea che alla fine, insomma, non ci sono soluzioni estreme e drastiche, ma c'è una revisione delle nostre abitudini alimentari dove spesso è possibile sostituire qualcosa con qualcosa di meglio. Ecco, tornando al discorso degli eccessi, rimanendo ovviamente convinti tutti che si mangia troppo e ci si muove troppo poco, perché credo che questo, insomma, sia proprio ormai assolutamente assodato. Poi io ho l'impressione che mangiamo tante cose di troppo, tra queste secondo me tra i primissimi posti c'è lo zucchero, quindi credo che abbia fatto molto bene. Grazie ad Eddie da Prato, e andiamo a Giuseppe da Bologna. Venga la domanda. Sì, benissimo. Io, guardi, la domanda è questa: sono uno sportivo, faccio sport ogni giorno e ho eliminato completamente le carni perché mia moglie è vegana e quindi mi sono adeguato. Mangio moltissimi carboidrati, parliamo di circa 600-700 grammi al giorno. Mi chiedevo se è una dieta equilibrata o invece molto squilibrata, come mi ha suggerito anche qualche amico. E quindi mangio solo carboidrati e verdure. Carboidrati e nient'altro. Quindi pasta anche e... Anche il caffè eliminato. Pasta e verdura o carboidrati in genere, quindi? No, anche la pasta, anche il pane o derivati, insomma. certo. Sono similari. Va bene. Allora, Giuseppe ci dice 500-600 grammi al giorno. Dottor Ongaro, non risponda ora perché è tempo di andare ai mercati e al meteo. Intanto voi continuate a chiamarci 800-24-0024. La prova costume vicina. Noi non ci vogliamo pensare, vogliamo approfittare però del consigli del dottor Ongaro per rimetterci un po' in forma, il che non vuol dire necessariamente perdere peso, ma imparare a mangiare meglio per la nostra salute. Questo è il concetto importante. Minestra di mais, scelta interessante. Lo sai, vero, che la cellulite è uno degli ingredienti principali della minestra di mais? Così qui le ragazze non mangiano niente. No, da quando la taglia 38 è diventata la nuova 40, e la 36 la 38. Io porto la 42. Oh mio Dio. Andy, sei molto chic. Oh, grazie, Emily. Tu sei così magra. Davvero? Sì, per Parigi. Sai, sto facendo una nuova dieta. È molto efficace. Non mangio niente. E poi quando sento che sto per svenire, butto giù un cubetto di formaggio. Tu ti sei venduta l'anima il giorno che ti sei messa il primo paio di Jimmy Choo. Ti ho visto. E lo sai cosa mi uccide di tutta questa storia? Perché i vestiti che ti daranno, cioè, tu non te li meriti, tu mangi carboidrati. Non è giusto. E a proposito di carboidrati, rispondiamo, dottor Ongaro, al nostro amico Giuseppe da Bologna, convertito ad una dieta senza carne, moglie vegana, mangia, è uno sportivo, mangia molti carboidrati, 500-600 grammi, più le verdure. Fa bene? Fa male? Dovrebbe ritoccare qualcosa? Beh, non è una dieta equilibrata, assolutamente, quindi anche in questo caso non è che eliminare le proteine sia la soluzione, quindi sicuramente fa un uso eccessivo di carboidrati, sarebbe perlomeno importante che questi fossero integrali per non incidere su quel famoso carico glicemico di cui abbiamo parlato molte volte, e se ovviamente si vuole rispettare un approccio vegano, fare abbondante uso di proteine di origine vegetale, altrimenti la fonte di proteine è assolutamente insufficiente. A proposito di proteine, stanno arrivando tantissimi messaggi al 349-238-6666, molti messaggi anche di sportivi che chiedono, come Roberto da Firenze, domande secche. Per uno sportivo intensivo, 2 grammi per chilo di peso corporeo di proteine sono troppe? Ma lì dipende davvero. Come bisogna orientarsi? Ma diciamo che è sicuramente il livello superiore a quello che è il fabbisogno medio di una persona. Certamente per un atleta d'élite di un certo livello, in alcuni periodi particolari di carico, con allenamenti che riguardano molto la parte muscolare, possono anche essere utilizzate, possono anche essere necessarie. Chiaramente torniamo a quello che si diceva prima con Andrea Ghiselli, il gioco diventa quanto a lungo mi posso permettere un'alimentazione così proteica. E a proposito di proteine, il quizzettone ideato dal dottor Ongaro, che voglio subito sfidarvi a trovare risposta. Perché si tende a dimagrire di più con le proteine? Risposta numero 1. Perché hanno meno calorie dei carboidrati. Potrebbe essere. Risposta numero 2. Perché vengono assimilate poco. Risposta numero 3. Perché servono più calorie per metabolizzarli. 800 24 0024. Date la vostra risposta al nostro numero verde. La prima risposta esatta potrà ricevere a casa il cofanetto Sugar Box. E io, dottor Ongaro, ho bisogno di leggerle alcuni sms, perché vogliamo dare la parola anche agli ascoltatori che ci stanno mandando messaggi per raccontarci a che cosa rinunciano. Ma leggerò anche gli sms che i nostri ascoltatori ci mandano per suggerirci invece le scelte da fare, cosa mangiare per restare in forma. Parto dalle rinunce. Mangiare fuori pasto, il consiglio di Alfredo. Rinunciando ai fuori pasto si dimagrisce, vero o falso? No, beh, è vero assolutamente, soprattutto se sono fuori pasto inconsapevoli, cioè apro il frigo, piglio questo, piglio quello, ne abbiamo parlato anche di questo tante volte, sono da evitare. Se il fuori pasto è uno snack programmato che aiuta ad alleggerire il pasto, allora può andare bene. Allo zucchero nel caffè, ci scrive Antonella. Assolutamente promossa. Alla frutta, perché è ricca di zuccheri e mi gonfia. Beh, sul mi gonfia chiaramente individuale non posso discutere, però non è necessario eliminare la frutta, è vero, è ricca di fruttosio, ma è anche ricca di tante altre cose che ci servono, inclusa la fibra, le vitamine, i minerali, eccetera. Mario rinuncia a vino e a pasta. Beh, allora, chiaramente... È un peccato però, sia l'uno che l'altro. Ma allora, se l'obiettivo è la perdita di peso, beh, probabilmente per un periodo può essere utile, più che la rinuncia per quello che riguarda la pasta, magari il passaggio all'integrale, magari la riduzione delle dosi, certo il vino sono delle calorie un po' vuote, sono parecchie, però anche qua, insomma, la rinuncia totale per sempre non è detto che sia necessaria. Molti sms sulle proteine, passo però, vorrei raccontare anche che cosa ci scrivono i nostri ascoltatori per suggerirci come mantenere, strategie per mantenersi in forma. Sto dimagrendo con la dieta dissociata, pranzo carne o pesce, verdure, a cena pasta e verdure. Ma Nicoletta, la risposta qui è sempre la stessa, si dimagrisce quasi sempre con qualsiasi approccio di un po' se si passa da un'alimentazione disattenta a una più attenta. Il problema è qual è la strategia giusta per mantenere poi quella perdita nel tempo. La dieta dissociata secondo me non offre dei particolari vantaggi, devo essere sincero. Io preferisco ad ogni pasto avere tutti i macronutrienti però nelle proporzioni giuste. Andiamo a Rita che ci chiama dalla provincia di Vicenza, poi Sandra sempre dalla provincia di Vicenza e poi Luigi. Sentiamo tre ascoltatori in fila. Rita, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Io vorrei chiedere un consiglio. Mangio poca carne perché non la digerisco, non mi piace, tanta verdura. Vorrei avere un'idea così spicciola, senza far conti, delle proteine necessarie in una giornata per me che ho 60 anni. Un uovo sodo può bastare come proteine al giorno, posso aggiungerci un po' di formaggio, carne no ovviamente. Grazie Rita, il dottor Ongaro intanto si prepara, io vado a sentire Sandra e poi Luigi. Sandra. Buongiorno, io volevo raccontarle di una mia esperienza capitata nel 2009, avevo avuto il mio bambino da 3 anni e mi trovavo quei 4-5 kg in più che non riuscivo a smaltire. E ho pensato, ho detto, ma posso riempirmi la pancia prima dei pasti con un bel litrone d'acqua, tanto l'acqua che male vuol che faccia. Poi il suo ospite mi ha gelato 20 minuti fa quando ha detto si può morire anche di troppa acqua. Ma era, quindi, sì, certo. Volevo capire appunto se ci sono... Ma lei Sandra è Sandra assolutamente viva. Sì, stia lì Sandra, il dottor Ongaro le risponde subito dopo, ma andiamo a Luigi che ci chiama da Lodi. Buongiorno Luigi, benvenuto. Buongiorno, io ho un'esperienza personale, 6-7 anni, dove ho deciso che rifaccio cambiare un po' di vita. Luigi, la richiamiamo perché non sentiamo bene la sua voce, dalla regia la richiamano. Dottor Ongaro, allora, consigli per chi mangia poca carne e vuole comunque assicurare il giusto quantitativo di proteine con, suggeriva la nostra ascoltatrice, magari prese dalle uova, dai formaggi, quanto? Ci aiuti a visualizzare? Allora, sì, per quello che riguarda Rita, io credo che sia importante dire che non ne servono tantissime, però servono di buona qualità, quindi sicuramente metterei al primo posto il pesce, poi in una dieta variata in cui si mangia una buona porzione di proteine al giorno con delle piccole aggiunte, magari la signora stava citando il formaggio, le uova o qualche altra fonte di proteina da spezzettare nel corso della giornata sono più che sufficienti, quindi non deve preoccuparsi di aver eliminato la carne, anche se sono anch'io d'accordo che non è che la carne in sé sia la cosa che dobbiamo necessariamente eliminare. Per quello che riguarda invece Sandra, allora io credo che potrebbe utilizzare la stessa strategia di pre-riempimento dello stomaco utilizzando però la verdura, perché dobbiamo utilizzare l'acqua? L'acqua utilizziamola nel corso della giornata sicuramente, ma gonfiarsi lo stomaco d'acqua rischiando magari di diluire anche i succhi gastrici e rallentare la digestione non è detto che sia necessario, invece possiamo iniziare a mangiare con la verdura, questo arricchisce il pasto e rallenta la fame perché ci riempie lo stomaco. E a proposito di verdura, voi sapete cuocerla nel modo corretto? Di solito in estate è una stagione particolarmente generosa, la verdura verdura la portiamo in tavola cruda, ma non è sempre possibile. Allora, tra poco i consigli per non perdere nulla, sali minerali, vitamine della verdura, ci raggiunge la dottoressa Reverso. Ma voglio chiedervi anche una cosa. Noi in questi giorni combattiamo magari con i chili in più, ci vediamo di più il rotolino, ma i nostri alimenti in questo periodo combattono con un nemico, il caldo. Uno zerbino che ti dice quanto pesi. Il tuo peso è... Scendi, scendi! No! Per te ci sono verdure al vapore e gallette di riso. Aspetta un momento. Ehi, ma io queste le ho sempre usate come sottobicchieri. Beh, sono solo 35 calorie l'una. Pronto? Pronto? Pronto, gusto? Dove sei? Buongiorno alla dottoressa Reverso, medico nutrizionista e presidente dell'associazione Il Me Più Te. Buongiorno e bentornata. Buongiorno, grazie. Dottoressa Reverso, portiamo in tavola le verdure. La stagione è particolarmente generosa, ma non sempre possiamo consumare le verdure crude. Cuocendole, a quali attenzioni dobbiamo, seguire? Beh, intanto le temperature. In estate abbiamo poca voglia di accendere il forno, anche se il forno potrebbe essere una buona soluzione, perché cuocere le verdure al cartoccio ad una temperatura del forno di 140 gradi ci permette poi di raccogliere il succo, insomma, di queste verdure e di utilizzarlo magari per condire la pasta. Però possiamo anche tagliarle a pezzettini molto piccoli, piccoli dadini, e cuocerle in padella con poco olio a bassa temperatura e abituarci anche a mangiarle croccanti, quindi a non fare lunghe cotture, non aggiungere subito tanta acqua. A volte, per ridurre i grassi, cosa facciamo? Tendiamo ad aggiungere l'acqua, sì. Però poi disperdiamo troppo. Cotture brevi, cotture veloci. Poi magari quando noi scoliamo la pasta, non la scoliamo completamente, con l'acqua di cottura della pasta cerchiamo di amalgamare. Perfetto. Mentre poi dell'olio extravergine crudo. Abbiamo sentito Homer con le verdure al vapore. Il vapore è sicuramente un ottimo metodo di cottura, ma se volessimo invece far lessare le verdure, si mettono con l'acqua bollente o si mettono a freddo? Meglio metterle subito, meglio mettere con l'acqua bollente, quando l'acqua già bolle. Naturalmente è sempre da preferire la cottura a vapore. Un'altra cosa importante, perché le verdure, soprattutto per le persone che magari sono vegane o macrobiotiche, che quindi tendono a consumare pochi cibi animali, sì. Bisogna sempre aggiungere delle gocce di limone, perché ricordiamoci che la vitamina C potenzia l'assorbimento del ferro. Quindi ricordatevi il limone. E poi un'altra cosa importante, sì. La vitamina C attiva anche la vitamina E. La vitamina E è molto labile al calore e quindi la perdiamo. Quando noi vogliamo aggiungere magari della vitamina E, all'abitudine magari di mettere dei semi di sesamo, dei semi di girasole, che nelle ricette di Mangia con me le abbiamo consigliate spesso, ricordiamoci di aggiungerli dopo la cottura, al momento di servire il piatto. Grazie dottoressa Reverso per essere stata con noi. Buona giornata, buon Mangia con me. Grazie a voi. Grazie. Abbiamo Massimo che ci chiama da Verona, dalla regia mi dicono che è pronto per la risposta del nostro quizzettone. Dottor Ongaro, lei è pronto? Massimo. Massimo, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a voi. Allora, mi dicono che lei è pronto per rispondere al nostro quiz. Perché si tende a dimagrire di più con le proteine? Perché hanno meno calorie dei carboidrati? Perché vengono assimilate o poco? O perché servono più calorie per metabolizzarle? Massimo, lei quale ha scelto? La numero 3. Dottor Ongaro, ci ha preso? Ha ragione Massimo. Bravo Massimo. Grazie. A Massimo faremo arrivare a casa la Sugar Box. Grazie Massimo e complimenti. Grazie a voi. Dottor Ongaro, che non è la scatoletta di zucchero, diciamo. Che non è la scatoletta di zucchero, ma è vero, è vero. Ma una scatoletta in cui si possono provare le novità della cosmesi. Dottor Ongaro, noi dobbiamo imparare a mangiare bene, ma dobbiamo soprattutto fare attenzione a conservare bene i nostri alimenti, specie in questo momento dell'anno in cui facciamo la spesa, poi magari ci attardiamo, arriviamo a casa e in qualche modo interrompiamo quella catena del freddo che invece è garanzia della salute dei nostri alimenti. In linea con noi abbiamo Luciano Bergesio, buongiorno. Buongiorno. chef enogastronomo e consulente di industria alimentare. Abbiamo pochi minuti per dare alcune regole importanti per conservare bene i nostri alimenti. Regola numero uno: andiamo a fare la spesa, attenzione a non interrompere la catena del freddo. Eh beh, certo, di questi tempi soprattutto bisogna cercare di mantenere la catena del freddo utilizzando borse frigo, quelle per intenderci da campeggio sono le migliori, oppure quelle termiche che si trovano anche in vendita praticamente nei supermercati. Il cibo va gestito sempre molto bene durante la sua permanenza in frigorifero, se no perde buona parte delle sue qualità organolettiche. Passiamo alla spesa, dai sacchetti della spesa al frigorifero. È una delle regole principali per difendere la qualità del reale del cibo, cioè i sacchetti della spesa vanno bene per trasportare la spesa dal negozio, dal punto vendita a casa, ma non vanno sicuramente bene nel frigorifero perché sono portatori di grande inquinamento, quindi quando mettiamo i cibi in frigorifero dobbiamo togliere i sacchetti della spesa, dobbiamo confezionarli almeno in pellicola estensibile per togliere il più possibile l'aria attorno al cibo e poi riporli così in frigorifero. Ci sono tutta una serie di punti che sono molto importanti perché il frigorifero deve conservare bene la qualità che compriamo, se no è inutile comprare la qualità per poi sprecarla quando la teniamo in frigorifero. Ecco. Noi abbiamo cucinato un po' con la dottoressa Reverso, abbiamo lessato le verdure, le passate al vapore e poi devono passare dalla padella al frigorifero. Quando, come e dove? Intanto è importantissimo che i cibi che abbiamo cucinato passino freddi in frigorifero. Bisogna fare molta attenzione a questo perché se noi mettiamo dei cibi ancora tiepidi o ancora peggio caldi, praticamente aumentiamo la temperatura all'interno del frigorifero e molte cariche batteriche iniziano a svilupparsi oltre i 5 gradi, quindi se noi portiamo la temperatura sopra i 5 gradi corriamo il rischio di inquinare, ecco, tutti gli altri cibi. E poi soprattutto contenitori con il coperchio e tutti i cibi ben protetti. Al frigorifero dedicheremo sicuramente un approfondimento prima ancora dell'estate con il dottor Bergesio. Intanto io vi devo salutare e vi devo ringraziare. Abbiamo il dottor Ongaro che è ancora in linea, che ci saluta con una massima, un'indicazione. Saluto dicendo che con il cibo c'è sempre qualcosa da imparare, infatti stavo ascoltando adesso il nostro ospite, c'è sempre qualcosa in più da imparare. Pensavo che dicesse l'unica cosa che fa sempre bene è essere benessere e mangia con me. Grazie al dottor Ongaro, grazie al dottor Bergesio e grazie a voi che ci avete seguito, a Miriam Lucchetti e a Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica. Noi ci sentiamo come sempre domani, buona giornata.